d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Competitività e sostenibilità. 5 storie di successo ai Best Performance Award di Daniele Zinni. Gli utili non sono tutto nella vita di un'impresa. Lo sanno imprenditori e manager e lo sa il comitato di valutazione dei Best Performance Award. Un premio per 5 imprese italiane che nel triennio 2013-2015 hanno saputo coniugare risultati economico-finanziari e sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e responsabilità sociale. In questa puntata speciale di Voci d'Impresa parliamo dunque delle aziende che si sono aggiudicate i riconoscimenti. La scuola di direzione aziendale Sda Bocconi ha condotto la selezione insieme a JP Morgan, PwC, Thomson Reuters e Gruppo 24 Ore. Quasi un anno di analisi scientifica, questionari e faccia a faccia con le imprese per arrivare alla cinquina finale, da una popolazione di partenza di oltre 500.000 aziende. I Best Performance Award prevedono un premio per la migliore prestazione aziendale in assoluto, uno per la migliore strategia di crescita tramite acquisizione e 3 categorie dimensionali: imprese piccole, fatturato tra i 25 e i 50 milioni, imprese medie, tra i 50 e i 250 milioni, e grandi, con un fatturato tra i 250 milioni e i 500. In questa puntata saranno le stesse aziende premiate a descrivere le peculiarità che le hanno portate all'eccellenza. Una miscela complessa che deve guardare anche al futuro, come spiega Andrea Illi, presidente della storica Illi Caffè, giudicata migliore azienda in assoluto tra le finaliste. La sostenibilità in particolare per noi è l'altra faccia della qualità. Facciamo un grosso investimento di approvvigionamento direttamente all'origine nei paesi produttori di caffè e di formazione attraverso l'Università del Caffè per aiutarli a elevare i loro standard. Ecco, l'Università del Caffè è nata nel 1999 con l'obiettivo di, da un lato, trasferire competenze tecniche, skill se vogliamo, per la lavorazione del caffè sia in piantagione che nei pubblici esercizi, ma poi anche diffondere la cultura del caffè a 3 dipartimenti, uno per gli agricoltori, uno per gli esercenti, uno per i consumatori, e fa oltre 20.000 corsisti al mondo, all'anno. L'innovazione è continua in Illi, penso che siamo sul podio delle più importanti aziende, diciamo, come produzione di intellectual property. Su 8 innovazioni radicali che ci sono state nel settore caffè, 3 sono nate in casa Illi e continuiamo a lavorare molto sull'innovazione. Recentemente abbiamo presentato proprio all'Expo il Personal Blender, che consente con una app e un impianto automatico di contare i chicchi uno ad uno e permettere al consumatore di farsi la ricetta automaticamente del caffè che desidera. Abbiamo fatto tutto da soli, con i propri mezzi, 100% familiare, tutto finanziato dal cash flow, senza fare un ricorso esagerato al debito, perché comunque c'è un buon equilibrio finanziario, e la nostra crescita è stata, direi, tra le aziende, quindi autofinanziate, che hanno fatto solo crescita organica, probabilmente quella che ha avuto il tasso di crescita negli ultimi 20 anni tra i più importanti. Un'azienda è un organismo e deve curare il benessere di tutte le sue parti. Se il gruppo FAAC, che opera nel settore dei sistemi di automazione e controllo degli accessi, ha ottenuto la miglior performance tra le grandi imprese, è stato tanto grazie alla strategia di crescita quanto all'impegno nel welfare aziendale. Ne parla Andrea Marcellan, amministratore delegato del gruppo, che evidenzia 2 aspetti. Primo è la capacità di crescita, cioè la velocità con cui questa azienda ha saputo trasformarsi ed evolversi e crescere, fondamentalmente mixando crescita interna e variazioni di perimetro, quindi acquisizioni. E il secondo aspetto, la forte capacità di autofinanziare questa crescita, cioè generare cassa sufficiente per poter alimentare un progetto che per noi, insomma, è molto ambizioso. Il nostro unico socio, quindi l'Arcidiocesi di Bologna, ha confermato il piano industriale del suo predecessore, fa un uso estremamente oculato dei proventi finanziari che noi produciamo, nel senso che ha una politica di dividendi molto a favore dell'impresa e ha ulteriormente enfatizzato l'impatto sociale benefico che un'impresa industriale deve e può dare per la comunità che alimenta e l'ambiente in cui vive. Non parlo solo quella italiana, ma anche del fatto che noi lavoriamo in 24 paesi, dei 2.500 dipendenti la stragrande maggioranza non vivono in Italia, e negli ultimi due anni stiamo cercando di porre molta enfasi e attenzione su programmi rivolti al welfare aziendale, cioè stiamo cercando di poter offrire una serie di benefit indipendentemente dalla gerarchia, diciamo così, che i vari dipendenti occupano all'interno della nostra organizzazione, estese anche a paesi nei quali noi operiamo e che tradizionalmente non li hanno. La Bulgaria, l'India o la Cina o il Latino America, dove questo tipo di pacchetti aggiuntivi, diciamo, sono meno frequenti o meno utilizzati. Nel tempo, la responsabilità sociale e ambientale diventa una componente radicata nella cultura dell'azienda stessa. Come spiega Camillo Gusi, amministratore delegato di Vimar. Giudicata la migliore tra le imprese di medie dimensioni, Vimar si occupa di progettazione, produzione e vendita di prodotti e sistemi elettromeccanici ed elettronici. Noi siamo presenti dal 1945, crediamo di aver sempre dato prova di responsabilità, prova di impegno. Questa è una cosa che forse entra nel DNA dell'azienda, perché da sempre siamo stati molto vicini al territorio, molto vicini all'ambiente, molto vicini ai nostri collaboratori. Noi siamo certificati ambiente e sicurezza fra le prime aziende nel Veneto. Siamo un'azienda che ha costituito ancora più di 20 anni fa un circolo per i pensionati che ha un valore di volontariato, che partecipano con grande entusiasmo alle attività che poi organizziamo per loro, che si aiutano, che creano anche un ambiente all'interno dell'azienda, di chi lavora, che pensiamo possa dare una ulteriore passione e impegno per il futuro. Per chi realizza prodotti immateriali come software, l'innovazione può coincidere con l'attrazione di talenti e la responsabilità con l'attenzione alla sicurezza digitale del cliente. Lo dice Luigi Marciano, fondatore e amministratore delegato di ObjectWay, migliore impresa piccola, piccola ma in crescita a livello internazionale. Siamo un'azienda italiana che però fa oltre il 50% del fatturato all'estero in Europa. Siamo fortemente presenti in Inghilterra, ci stiamo espandendo in altri 14 paesi. Facciamo software per i servizi di investimento, quindi grazie al nostro software i nostri clienti gestiscono i risparmi degli individui, quindi dei risparmiatori, quindi è un'attività molto delicata. Le criticità sono riuscire a mettere a disposizione dei clienti degli strumenti che anche in condizioni di mercati finanziari molto volatili, molto difficili, consentono comunque di supportare i risparmiatori. La nostra è un'azienda di software, quindi è un'azienda di persone, basata sulle persone, sull'innovazione. La ricerca e sviluppo è fondamentale per mantenere aggiornate i nostri prodotti, quindi investire in ricerca e sviluppo significa investire in persone brillanti che sono in grado di sviluppare piattaforme software innovative in linea con quello che è appunto la trasformazione digitale che sta pervadendo sempre di più tutti gli ambiti di business e la vita di tutti noi. Tema di particolare attualità in molti mercati sono acquisizioni e fusioni. Per questo il Comitato di Valutazione dei Best Performance Award ha scelto di premiare la più efficace strategia di crescita tramite acquisizione. Riconoscimento ritirato da Giannino Zanichelli, presidente del gruppo Zapi, che produce controlli elettronici per la mobilità elettrica. Ci siamo voluti espandere sui mercati europei, statunitensi e asiatici. Abbiamo dovuto naturalmente fare acquisizioni per poter essere forti e gestire questi mercati. Quindi le start-up non erano sufficienti perché bisognava essere presenti in maniera massiccia fin dall'inizio. Resta il fatto che le acquisizioni sono state, diciamo, il nostro treno per poter entrare con successo in questi mercati qui. Ci sono tanti parametri o tante analisi da fare per avere, insomma, tutti quegli elementi che possono garantire, diciamo, il successo, per cui il prodotto, parte finanziaria, un'organizzazione, essere efficienti Quindi questi sono gli elementi poi che portano a globalizzarsi, poi con successo. Ecco. È evidente che dietro bisogna avere le spalle robuste, perché dal punto di vista finanziario poi bisogna avere i prodotti adatti, bisogna investire anche sui prodotti, perché non sempre i prodotti che uno ha per l'Europa sono adatti agli Stati Uniti o all'Asia. Noi siamo nel settore a trazione elettrica, veicoli elettrici, ed è un mercato che tira. La svolta è un interesse sempre più forte sulla riduzione delle emissioni. Tutto il mondo corre dietro alle emissioni zero. Guardiamo i cinesi, sono stra-inquinati, quindi hanno assolutamente bisogno di veicoli elettrici, no? Aziende eroiche in tempi di crisi. Così le definisce Leonardo Etro di Sdabocconi, co-direttore scientifico dello studio che ha portato all'assegnazione dei premi. Aziende diverse, come abbiamo visto, accomunate da almeno un tratto molto concreto: il basso livello di indebitamento, che suggerisce al professor Etro una domanda importante, una domanda che per ora tuttavia deve restare aperta. L'aspetto sicuramente più interessante che è emerso dall'analisi quantitativa è che le aziende di successo sono quelle poco indebitate, quindi aziende che avevano cassa a bilancio. E questa cassa probabilmente rimane la questione aperta. Questa posizione finanziaria liquida è dovuta al fatto che sono aziende che di per sé performano bene e quindi hanno degli economics positivi, e questo gli ha permesso di essere anche rispettose dal punto di vista umano e sociale e dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, oppure è il fatto che fossero virtuose a livello di dimensione umana sociale o al rispetto di innovation technology che le ha fatte diventare dei best player dal punto di vista economico finanziario. Questo rimane un po' la domanda aperta. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.